Salve a tutti, io sono Jasmine, questo è Radio Big World e benvenuti a una nuova puntata di Curiosità Animate, dove vi parlo dei classici Disney. Il classico di cui parleremo oggi è La Sirenetta, 28esimo classico Disney e rilasciato nel 1989. Il film è basato sull'omonima fiaba di Hans Christian Andersen. La protagonista è Ariel, una sirena, ed è figlia del re Tritone, il re di Atlantica, ovvero questo mondo marino. E Ariel è molto affascinata dal mondo degli umani. Tutti coloro che la circondano le sconsigliano e anzi le vietano di avere contatti con la superficie. Ma Ariel non ascolta mai gli avvertimenti del padre. Ed una sera sale in superficie e assiste al compleanno del principe Eric, di cui si innamora a prima vista e che salva dall'annegamento. Dopo aver litigato col padre, che, scoperta questa cosa, le distrugge la sua collezione di artefatti umani, Ariel decide di andare nell'antro della perfida strega marina Ursula, che la trasforma in un essere umano, a patto che entro 3 giorni riesca a ricevere il bacio del vero amore, altrimenti sarebbe ritornata una sirena e Ursula l'avrebbe imprigionata. Ariel, adesso umana, riuscirà a rincontrare Eric e in due giorni riescono a innamorarsi, però il piano di Ursula era molto più complicato. Infatti ella voleva imprigionare la sirena per prendere il controllo di Atlantica. Dopo varie peripezie e i piani malefici della strega per impedire il matrimonio fra Ariel e Eric e per imprigionare il re Tritone, finalmente viene sconfitta e il padre di Ariel decide di trasformare per sempre la figlia in umana, di modo che lei potesse vivere col suo innamorato. La storia è un riadattamento molto più felice della fiaba originale, ma questo cambiamento non intaccò assolutamente il successo della pellicola. La Sirenetta, nella sua prima uscita, incassò ben 85 milioni di dollari, diventando uno dei film di maggior successo mai creati dalla Disney. Oltre al successo economico, La Sirenetta è un film importantissimo per la storia dell'animazione, tanto che con la sua uscita coincide anche il rinascimento della Disney e ciò che renderà la Disney il grande colosso dell'animazione che è oggi. Con La Sirenetta, oltre al design e ai personaggi interessanti, per esempio Ursula è ispirata alle drag queen, ma anche ai tanti animatori che hanno collaborato, tra cui i più famosi Glen Keane e Andres Deja, viene reintrodotto il genere del film musicale, e nel 1990 la colonna sonora di Ariel vincerà anche un premio Oscar. Grazie per avermi seguito, io sono Jasmine, questa era Radio Big World e ci vediamo alla prossima puntata di Curiosità Animate. Povero me, sono circondato da dilettanti! Se devi fare una cosa, è sempre meglio pensarci da solo. Primo, bisogna creare l'atmosfera.